140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Centro Culturale Svizzero, Milano. Il più italiano dei festival stranieri. In corso a Locarno, in Svizzera, l'edizione numero 68 del Festival del Cinema, diretta ancora dal torinese Carlo Chatrian. Una nuova edizione di Locarno, ormai per te la macchina è rodata, ormai sei un pilota esperto. No, beh, non direi un pilota esperto, penso che per pilotare una macchina così complessa come Locarno serva sempre anche un po' di incoscienza e spero di non perderla. È necessaria la voglia anche di mettersi alla prova ogni anno, di rispondere ai film che riceviamo con lucidità, ma anche appunto dico con un po' di incoscienza, perché penso che questo sia importante oggi nel cinema, cioè andare anche un po' oltre le attese, prendere dei film che magari non sono scontati e sostenerli, e anche a volte magari sostenere poi la risposta del pubblico se questa non è positiva. Per adesso mi sembra sia andato abbastanza bene. Dici risposta del pubblico anche perché una delle caratteristiche di Locarno è quella di avere subito in Piazza Grande la risposta di un pubblico molto vasto. Fate un feedback immediato? Assolutamente, dico sempre, è uno screening test unico e irripetibile. Sì, ovviamente la Piazza Grande penso che sia il banco di prova più importante per un film nel confronto col pubblico. Bisogna dire che la Piazza Grande e in generale il pubblico di Locarno, questo è proprio la sua caratteristica, ha una curiosità e anche una capacità di resistenza, per parlare proprio di materiali, ma non lo sono, una capacità di resistenza anche a proposte molto diverse. Ecco, lo scorso anno il film che ha vinto, Love Diaz, durava 5 ore e 45, non dico che la sala di 1000 posti era piena, però poi le repliche in sale più piccole hanno avuto sold out. Quindi è una cosa che penso faccia ben sperare per il cinema, per il futuro del cinema. Come sempre, chicche, grandi proiezioni di film anche mainstream e concorso, tanti gli ingredienti. Beh sì, penso che sia importante raccontare il cinema in tutta la sua varietà, ricordarci che il cinema non è solamente un tipo di racconto, ma sono tanti, bisogna parlare al plurale, tanto negli ospiti quanto poi nelle proposte. E quindi per me è veramente fondamentale. Ovviamente non bisogna esagerare, perché poi alla fine se no ci dà l'impressione di una dispersione, però è importante affiancare percorsi diversi, lasciando poi allo spettatore di costruire e al professionista di costruire il proprio di percorso. C'è sempre la curiosità per le star, quindi ti chiedo un po' chi passerà da Locarno quest'anno. Quest'anno in generale nel programma della Piazza Grande ci sarà molto cinema americano e ovviamente accompagnato, ma anche tra gli ospiti, ecco, penso per esempio a Edward Norton o a Michael Cimino, un regista che è nel cuore di tutti, oppure anche alla straordinaria protagonista e sceneggiatrice di Trainwreck, Amy Schumer, che è sulla bocca di tutti in America oggi, ha una comicità e uno humor davvero irriverente, ma al femminile. Ragazze, vostra madre e io divorziamo. La monogamia non è realistica. La monogamia non è realistica. Di nuovo. La monogamia non è realistica. All'epoca non capii quella parola. Ma ora so esattamente di cosa stava parlando. Sabato mi piacerebbe che uscissi con me. Non si può fare perché, cioè, io e te non ci vedremo mai più. Grazie. Niente. Ho bisogno di un articolo. Devi farmi un profilo di un medico sportivo. Insomma, un articolo su di me. Mm-hmm. Scusa il disturbo, dopo guardi Downton Abbey? LeBron mi sta intervistando. Però stasera me lo guardo, sennò domani agli allenamenti tutti i ragazzi ne parlano e mi tagliano fuori. Alto. Segui lo sport? Lo sport è il mio amore. Squadra preferita? Gli Orlando Bloom. E poi anche per restare invece in territori più vicini a noi europei, penso Marco Bellocchio, che riceverà il Pardo d'Onore, Bulloger, straordinario interprete di una stagione del cinema francese, da Buñuel a ovviamente Rivette, Schroeder, e fino ad arrivare a De Oliveira, che ricorderemo proprio grazie a lei. E poi, non so, gli attori e le attrici che accompagnano i film della Piazza Grande Concorso, Marthe Keller, Carmen Maura, Cécile de France. E anche nei concorsi più piccoli, per esempio Cineasti del Presente ha un film che si chiama Le Grand Jeu, che sarà accompagnato da Melville Poupaud e Clémence Poésy. Quindi cerchiamo un po' di bilanciare in ogni sezione l'aspetto più di ricerca con l'aspetto anche più di entertainment o anche più di andare a toccare delle corde emotive. Ecco, quest'anno ci sono diversi film che lavorano in questa direzione. Permettimi di essere un po' provinciale, italiani? Beh, per una volta magari non mi trovo troppo in difficoltà a rispondere a questa domanda, perché l'Italia è ben rappresentata quest'anno a Locarno. Oltre a Bellocchio, in Piazza Grande faremo vedere un cortometraggio di Mario Martone, che è uno dei registi penso più importanti, perlomeno per me più cari, e poi un manipolo, una corte di giovani registi, più o meno tutti della stessa età, più o meno tutti impegnati nel portare avanti un'idea di cinema un po' diversa da quella che siamo abituati ad avere, quindi non solo fiction, ma una fiction che si mescola alla realtà, alla visione della realtà, quindi a quello che viene chiamato il documentario. Una ricerca di sperimentare linguaggi, penso a Pietro Marcello, al suo film Bella Perduta, che per me è davvero uno dei film importanti degli ultimi anni italiani. Penso ugualmente ad Andrea Segre, che arriva con un lavoro che mescola il presente al passato, il Kazakistan di oggi all'Italia del boom economico. Penso a Martina D'Anolfi e Massimo Martina Parenti e Massimo D'Anolfi. Chiasmo, sono una coppia nella vita e nel cinema che ci raccontano il Duomo di Milano attraverso le materie che lo compongono, o ancora Massimo Coppola che decide di raccontarci Romeo e Giulietta, una storia che tutti conosciamo, ambientandola grazie a Valerio Mastandrea in un campo rom e scoprendo che la realtà è più forte della finzione. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Carlo Chatrian. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.